Good morning. Buongiorno. Benvenute e benvenuti a tutte e tutti voi che siete qui stamattina. Devo dire che per me è difficile credere che questa è la mia prima visita a Roma. Mi ci sono voluti tutti questi decenni per visitare questa bella città. Voglio ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori per avermi invitata, per avermi dato la possibilità di conoscere questa incantevole città. Dovrei dirvi che ho avuto la fortuna di vedere un documentario meraviglioso sugli eritrei in Italia, dal titolo Asmarina, di Medin Paulos e Alan Maglio. E dunque, non vedo l'ora di condividere alcune delle mie idee con studenti, con la facoltà, con la comunità. E spero che ci sia una discussione vivace dopo il mio intervento. Quando visito un posto per la prima volta, anche se sono passati quasi 45 anni dal mio processo, se ci sono delle persone che hanno partecipato alla campagna per la mia liberazione, mi piace manifestare la mia più profonda gratitudine. Quindi posso chiedere se c'è qualcuno tra i presenti e tra le presenti che sono stati coinvolti o coinvolte nella campagna per me oltre 45 anni fa? Ok? Una, due, tre, quattro, cinque, un certo numero. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine perché senza questo movimento internazionale, senza alcun dubbio, io sarei ancora in prigione oggi. E parlo di questo avendo saputo solo ieri che uno dei miei contemporanei, un uomo arrestato e imprigionato nello stesso periodo in cui è successo a me, per la cui libertà io ho lavorato fin dalla mia liberazione, che si chiamava Mondawi Langa, ufficialmente David Rice, è morto ieri nella prigione del Nebraska, dove ha passato gli ultimi 44 anni. Era un organizzatore nella Black Panther Party e forse avete sentito che stiamo attualmente celebrando l'anniversario della fondazione del Black Panther Party. E Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, hanno ormai passato la maggior parte della loro vita dietro le sbarre. L'argomento di cui parlo stamattina è il significato della supremazia bianca oggi. Dovrei dire il significato della supremazia bianca oggi. Ponendo l'enfasi sulla parola oggi, voglio riconoscere la complessità storica del razzismo. In particolare considerando i cambiamenti che sono avvenuti in collegamento con quelli del capitalismo globale. Cedric Robinson, the author of Black Marxism, I see Marx will probably be invoked numerous times during the course of this morning. Come dice Cedric Robinson, autore di Black Marxism, Marx verrà citato probabilmente parecchie volte nel corso della mattinata, il capitalismo è sempre stato capitalismo razziale. Dalla sua progressiva affermazione e connessione con lo schiavismo alle moderne questioni del capitalismo, e considerando la razzializzazione dei suoi mercati e il modo in cui viene prodotta la povertà nelle comunità vittime di razzismo in tutto il mondo. Anche se si può ritenere che le riflessioni sulla natura della supremazia bianca oggi in larga parte si focalizzino esclusivamente sulla diffusione delle idee e delle organizzazioni della supremazia bianca all'interno degli Stati Uniti, e ovviamente dobbiamo riconoscerle, le condizioni contemporanee negli Stati Uniti, qui in Europa, in America Latina, nel Medio Oriente, in altre parti del mondo, ci impongono di sviluppare una comprensione più profonda degli elementi strutturali del razzismo, di riconoscere la globalizzazione del razzismo, in particolare nell'ambito del neoliberismo. E di tradurre la nostra comprensione dell'intersezionalità della giustizia in solidarietà e lotte concrete nelle lotte per l'eguaglianza che raggiungano esplicitamente le frontiere transnazionali. E dunque dico che storicamente noi abbiamo la tendenza a localizzare il razzismo, in particolare negli Stati Uniti o in Sudafrica. Ed è un dato acquisito che l'apartheid ufficiale è stato smantellato in Sudafrica e quindi il razzismo è stato sicuramente considerato lì. L'abbattimento del razzismo non è una mera funzione di vittorie elettorali, che si tratti di Nelson Mandela o di Barack Obama. Negli ultimi anni, con l'emergere di proteste contro gli assassini da parte della polizia di Michael Brown a Ferguson in Missouri, la gente da tutto il mondo ha espresso la propria solidarietà a partire dalla campagna per sradicare la violenza di Stato, la violenza razzista di Stato negli Stati Uniti. È un dato di fatto che dopo le proteste di Ferguson, lo slogan «Mani in alto, non sparate» ha fatto il giro del mondo, seguito dalle ultime parole di Eric Garner. Non riesco a respirare. Ed è un dato di fatto che nel settembre del 2014 sono venuta in Italia per partecipare ad un incontro per la campagna di liberazione dei 5 di Cuba a Savona. Sono già stata in Italia. Ero sorpresa che oltre all'appello per la liberazione dei 5 di Cuba, la gente avesse già iniziato a fare un appello per la giustizia per Michael Brown a Ferguson in Missouri. Ed è un dato di fatto che il nome Ferguson ha iniziato a significare il rifiuto di accettare analisi ingenue e soluzioni semplicistiche del problema del razzismo. Durante i miei tanti decenni di attivismo antirazzista e anche prima, gli assassini di stampo razzista da parte della polizia, legali ed extralegali, dal caso di Scottsboro negli anni 30 alla pletora di casi subito dopo Ferguson, incluso l'assassinio da parte della polizia di donne nere, questi assassini sono spesso serviti da indicatori del bisogno di costruire campagne collettive contro il razzismo. Comunque, più recentemente, e in particolare citando il caso di Oscar Grant a Oakland e di Trayvon Martin, che probabilmente conoscete, a Sanford in Florida, interventi strategici sotto la pressione del neoliberismo si sono focalizzati in maniera troppo acuta sull'ottenimento di una giustizia che garantisca che il singolo venga condannato e punito. Il presupposto che la giustizia si possa ottenere con mezzi carcerari contraddice ovviamente le idee proposte da teorie abolizioniste e da attiviste ed attivisti negli ultimi due decenni, nonché l'urgenza di muoversi su modi di aver giustizia che non dipendano dagli approcci punitivi propri del capitale, che portano alla pena e all'incarcerazione. Se si risponde al razzismo della pena di morte, che come tipo di punizione negli Stati Uniti è molto chiaramente un retaggio della schiavitù, ed è il razzismo che ha portato allo sviluppo del complesso carcerario industriale, ma poi lo stesso sistema si dispiace di incarcerare una popolazione che è composta in maniera sproporzionata da persone di colore. Se si risponde a questo ampio richiamo all'abolizione della morte e dell'imprigionamento come modo dominante di punizione, questo significa che non possiamo chiedere l'incarcerazione di coloro che accusiamo di perpetrare atti di razzismo. Moreover, it is counterproductive to continue to construct campaigns in response to racist. Inoltre, è controproducente continuare a costruire campagne in risposta a modelli razzisti, polizia razzista e assassina. È semplicemente riprodurre la forma retributiva della giustizia adottata dallo Stato. Questo è il dilemma che richiede una più profonda comprensione della natura strutturale del capitalismo, dell'ideologia della supremazia bianca. Abbiamo già citato Marx, ma forse dovrei citare anche Lenin. E voglio offrirvi un breve passaggio su quello che disse Lenin sulla rivoluzione del 1905. Disse: alcuni mesi di rivoluzione a volte educano i cittadini più velocemente e in modo più completo di decenni di stagnazione politica. Non sto dicendo che siamo vicini alla rivoluzione, vorrei che fosse così. Di fatto potrebbe essere vero il contrario. Ma possiamo dire che negli ultimi anni nei quali abbiamo visto l'emergere del movimento Black Lives Matter, abbiamo visto anche lo sviluppo di un più ampio e complesso impegno contro il razzismo. Un impegno che si focalizza su elementi strutturali per mettere in primo piano le aberrazioni individuali. Abbiamo visto cambiamenti in questo breve periodo, cambiamenti nei discorsi pubblici, cambiamenti verso un vocabolario accettabile ed idee accettabili. Cambiamenti in come il comportamento della polizia è stato soggetto allo sguardo dell'opinione pubblica. Cambiamenti nel modo in cui i media hanno dovuto parlare della violenza di Stato nelle carceri e nell'operato della polizia. Cambiamenti nel modo in cui la supremazia bianca e il razzismo sono stati concepiti in relazione a questi apparati di Stato e di polizia. Abbiamo anche vissuto cambiamenti nel modo in cui i movimenti neri percepiscono l'importanza di esprimere solidarietà internazionale. Abbiamo visto movimenti antirazzisti sempre più radicali negli Stati Uniti, che stanno infatti lottando per una comprensione più profonda del ruolo coloniale della riproduzione del razzismo nei nostri mondi. E questi movimenti hanno pubblicamente fatto appello per la giustizia in Palestina e per forme di solidarietà. E per forme di solidarietà verso i palestinesi e le palestinesi, come con la campagna BDS. E questo pone delle domande riguardo azioni e attivismo antirazzisti negli Stati Uniti, guidati da giovani attivisti neri e marroni. Se ci si domanda perché ora, perché questo movimento emerge in questo periodo, perché è sorto questo nuovo attivismo in questo periodo, c'è più di un modo per rispondere alla domanda. Si potrebbe riconoscere che i giovani attivisti di oggi hanno raggiunto la maturità con un presidente nero alla Casa Bianca. Uno la cui campagna si basava sulla speranza per la giustizia e l'uguaglianza. Se ricordate, 8 anni fa. Durante questa presidenza ci sono state parecchie proclamazioni sull'avvento di un'era post-razziale. In altre parole, è venuta fuori una ideologia del daltonismo. E l'idea che il modo migliore per andare oltre il razzismo e la supremazia bianca fosse imparare a non vedere le razze. Ma in pratica il tentativo continuo di ignorare le razze ha avuto come consapevole effetto collaterale il fatto che si ignorasse il razzismo. Devo dire che il razzismo strutturale è diventato il più grande fuoco d'artificio che abbiamo avuto nel periodo successivo al movimento per i diritti civili. Infatti, nella popolazione attuale, un numero incredibile di persone di colore era sottoconsiderata. Ed infatti le condizioni riguardanti l'istruzione, il diritto alla casa, alla salute, stavano deteriorandosi per le comunità povere nere. Ma al tempo stesso si intensificavano il razzismo contro gli immigrati, una palese islamofobia, un violento anti-islamismo associato alla cosiddetta guerra al terrore. E ovviamente il presidente stesso, perfino mentre i suoi servizi militari acceleravano assalti materiali ed ideologici contro i musulmani, era soggetto a speculazioni islamofobe sulla sua nascita e sulla sua affiliazione religiosa. E ovviamente ancora oggi, ed esito a citare le previsioni elettorali per gli Stati Uniti, probabilmente dovrei dire che perfino oggi un candidato presidenziale molto edificante come Donald Trump continua ad esternare commenti sulle persone nere, perfino quando la security caccia via contestatori neri dai suoi eventi. E lui, senza esitazioni, dipinge gli immigrati messicani come stupratori ed assassini e si esprime a favore della chiusura delle frontiere per tutti i musulmani. E ovviamente, nello stesso periodo di cui parlavo, abbiamo visto l'impatto di un Patriot Act come giustificazione della tortura e del terrore di Stato e della proliferazione di prigioni al servizio della cosiddetta guerra al terrore. In service of the so-called war on terror.